Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Emons Audiolibri. Marcel Proust. Alla ricerca del tempo perduto. Quarto volume. Sodoma e Gomorra. Legge Paolo Pierobon. Traduzione di Giovanni Raboni. Primo. Prima comparsa degli uomini donne, discendenti di quelli fra gli abitanti di Sodoma che furono risparmiati dal fuoco celeste. La femme aura Gomorre e l'homme aura Sodome. Alfred de Vigny. Come già sappiamo, quel giorno, il giorno in cui doveva aver luogo il ricevimento della principessa di Guermont, prima di fare al duca e alla duchessa la visita che ho appena descritta, avevo spiato il loro ritorno e compiuto, durante il mio appostamento, una scoperta concernente in particolare il signor di Charlus, ma così importante di per sé stessa che ho preferito rinviarne il racconto sinché non avessi, come ho ora, la possibilità di assegnarle il posto e lo spazio necessari. Avevo, si ricorderà, abbandonato il meraviglioso osservatorio, così comodamente sistemato in cima alla casa, da cui si dominano gli accidentati pendii che salgono sino al palazzo Bréquigny, gaiamente decorati all'italiana, dal roseo campanile della rimessa del marchese di Frécourt. Poi, quando avevo supposto che il duca e la duchessa stessero per tornare, m'era parso più pratico appostarmi sulle scale. Rimpiangevo un po' il mio soggiorno in altitudine, ma a quell'ora, subito dopo la colazione, c'era meno da rimpiangere, giacché non avrei visto, come di mattina, i minuscoli personaggi da quadro in cui la distanza trasformava il lacchè del palazzo Bréquigny eseguire la loro lenta scalata della ripida parete col piumino in mano, tra le larghe foglie di mica trasparente che spiccavano con un effetto così piacevole sul rosso dei contrafforti. In mancanza della contemplazione del geologo, m'era almeno concessa quella del botanico. Attraverso le persiane delle scale guardavo il piccolo arbusto della duchessa e la pianta preziosa esposti nel cortile con la stessa insistenza con cui si portano in società le ragazze da maritare, e mi chiedevo se l'improbabile insetto sarebbe mai venuto per un caso provvidenziale a visitare il pistillo offerto e trascurato. Reso via via più audace dalla curiosità, scesi sino alla finestra del pian terreno, anch'essa aperta e con le imposte chiuse solo a metà. Sentivo distintamente Jupien che si preparava ad uscire e che non poteva scoprirmi dietro la tenda, dove rimasi immobile sinché bruscamente non mi gettai di lato per paura d'essere visto dal signor di Charlus, il quale, recandosi da Madame de Villeparisis, attraversava lentamente il cortile, panciuto, brizzolato, invecchiato dalla luce del giorno. C'era voluta un'indisposizione di Madame de Villeparisis, conseguenza della malattia del marchese di Fierbois, dal quale lo divideva una mortale inimicizia, perché Charlus si decidesse a fare una visita, forse per la prima volta in tutta la sua esistenza, a quell'ora. Infatti, con la tipica eccentricità dei Guermont, che invece di conformarsi alla vita mondana la modificavano a seconda delle loro abitudini personali, non mondane, a loro giudizio dunque degne d'essere di gran lunga anteposte a una cosa priva di valore come la mondanità. Così, per esempio, Madame de Marsan non aveva un giorno fisso, ma riceveva le amiche ogni mattina dalle 10 a mezzogiorno. Il barone, serbando quel tempo per la lettura, la ricerca delle anticaglie, eccetera, non faceva mai una visita se non fra le 4 e le 6 del pomeriggio. Alle 6 andava al jockey o a passeggiare al Bois. Dopo un istante fece un altro passo indietro per non essere visto da Jupien. Si approssimava l'ora in cui era solito uscire per recarsi in ufficio, donde non tornava che per il pranzo, e neanche sempre da quando la nipote, una settimana prima, era andata con le sue lavoranti in campagna presso una cliente alla quale doveva finire un vestito. Poi, rendendomi conto che nessuno poteva vedermi, decisi di non spostarmi più, perché temevo di perdere, se fosse avvenuto il miracolo, l'arrivo quasi insperabile attraverso tanti ostacoli, distanze, avversità, pericoli, dell'insetto mandato da luoghi così lontani in ambasceria alla Vergine che da gran tempo protraeva la sua attesa. Sapevo che non era questa attesa più passiva di quella del fiore maschio, i cui stami s'erano spontaneamente disposti in modo che l'insetto potesse più facilmente riceverlo. Analogamente qui, il fiore femmina, se mai l'insetto fosse arrivato, avrebbe graziosamente inarcato i propri stili e, per essere meglio penetrata, avrebbe fatto impercettibilmente, come una giovincella ipocrita ma ardente, la metà del cammino. Le leggi del mondo vegetale sono a loro volta governate da leggi via via superiori. Se la visita ad un insetto, vale a dire l'apporto del seme di un altro fiore, è necessaria, di solito alla fecondazione di un fiore, è perché l'autofecondazione, la fecondazione del fiore ad opera del fiore stesso, condurrebbe, come i matrimoni ripetuti fra membri d'una stessa famiglia, alla degenerazione e alla sterilità, mentre gli incroci propiziati dagli insetti danno alle generazioni successive della stessa specie un vigore sconosciuto alle precedenti. Tuttavia, il rigoglio può essere eccessivo, la specie svilupparsi in modo smisurato. Allora, come un'antitossina ci difende dalla malattia, come la tiroide ci impedisce di ingrassare, come la sconfitta sopraggiunge a punire l'orgoglio e la stanchezza e il piacere, come il sonno a sua volta riposa dalla fatica, così un atto eccezionale di autofecondazione arriva al momento giusto a dare il suo giro di vite, il suo colpo di freno, facendo rientrare nella norma il fiore che se n'era troppo scostato. Le mie riflessioni avevano preso una piega di cui parlerò più avanti, e già dall'apparente astuzia dei fiori avevo tratto certe deduzioni su tutta una parte inconscia dell'opera letteraria quando vidi Charlot uscire dall'abitazione della marchesa. Erano passati pochi minuti da quando vi era entrato. Forse, direttamente dall'anziana parente oppure da un domestico, era stato informato del deciso miglioramento di Madame de Villeparisis, se non addirittura della sua completa guarigione da ciò che era stato un semplice malessere. In quel momento, credendo che nessuno lo guardasse, Charlot, le palpebre socchiuse contro il sole, s'era rilassato. Il suo viso aveva allentato quella tensione, quella vitalità fittizie che vi erano mantenute dall'animazione del discorso e dalla forza di volontà. Nel suo pallore marmoreo, il naso forte, i lineamenti fini non ricevevano più da uno sguardo volontario un significato diverso che alterasse la bellezza del loro modellato. Nient'altro ormai che un Garmin. Sembrava già scolpito, lui, Palamède XV, nella cappella di Combray. Ma quei tratti comuni a un'intera famiglia assumevano tuttavia, nel viso del signor di Charlot, una finezza più spirituale e soprattutto più dolce. Mi dispiaceva per lui, che di solito adulterasse con una tale aggiunta di violenze, spiacevoli bizzarrie, pettegolezzi, durezza, suscettibilità e arroganza, che nascondesse sotto una brutalità posticcia l'affabilità e la bontà che in quel momento, mentre lasciava la casa di Madame de Villeparisis, vedevo effondersi tanto ingenuamente sul suo viso. strizzando gli occhi contro il sole, sembrava quasi che sorridesse. Visto così, in riposo e come al naturale, mi parve che il suo volto avesse qualcosa di talmente affettuoso e disarmato che non potei impedirmi di immaginare quanto si sarebbe seccato il signor di Charlus se avesse saputo che lo stavo guardando. Infatti, ciò a cui faceva pensare quell'uomo che era tanto compreso, che si piccava tanto della propria virilità, al quale tutti sembravano odiosamente effeminati, ciò a cui tutto a un tratto mi faceva pensare, da quanto ne aveva fugacemente l'aspetto, l'espressione, il sorriso, era una donna. Ero pronto a spostarmi di nuovo, perché non mi scorgesse, non ebbi né il tempo né la necessità. Che vidi mai? Faccia a faccia in quel cortile, dove sicuramente non s'erano mai incontrati, giacché Charlus veniva a Palazzo Germain solo di pomeriggio, nelle ore in cui Jupien era in ufficio, il barone, spalancando di colpo gli occhi prima socchiusi, guardava con insolita attenzione l'ex farsettaio mentre questi, inchiodato repentinamente sulla soglia della sua bottega, radicato come una pianta di fronte a lui, contemplava con aria estatica la pinguedine dell'attempato barone. Ma, cosa ancor più stupefacente, non appena l'atteggiamento di Charlus cambiò, quello di Jupien vi si conformò all'istante, come obbedendo alle leggi di un'arte segreta. Il barone, che tentava ora di dissimulare l'impressione provata, ma che a dispetto di tale affettazione di indifferenza sembrava allontanarsi a malincuore, andava avanti e indietro, lo sguardo perduto nel vuoto in modo da mettere il più possibile in risalto nelle sue intenzioni la bellezza delle proprie pupille, con un'espressione fatua, noncurante, ridicola. Contemporaneamente, Jupien, abbandonando in gran fretta l'espressione umile e bonaria che gli conoscevo da sempre, aveva in perfetta simmetria col barone raddrizzato la testa e imposto alla sua figura un portamento baldanzoso, mettendosi con impertinenza grottesca una mano sul fianco, facendo sporgere il di dietro, assumendo insomma delle pose con la civetteria di un'orchidea a sopraggiungere del provvidenziale calabrone. Non immaginavo che potesse apparire così antipatico. Ma ignoravo anche che fosse capace di sostenere all'impronto la sua parte in quella sorta di scena dei due muti, alla quale, pur essendo la prima volta che si trovava al cospetto del signor di Charlus, sembrava essersi lungamente preparato. Non si raggiunge spontaneamente una tale perfezione se non quando, all'estero, si incontra un compatriota con il quale l'intesa viene da sé, essendo identica la mimica e la scena, anche se non ci si è mai visti prima, prestabilita.